Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Aia, e un saluto aia. Da Drago. Aspetta, vabbè, dai K, cosa c'è? Mal di schiena, sai che c'ho l'ernia, cioè una quasi ernia, sì, protrusione invece... quasi ernia, L5, L4, S1. Io invece oggi ho l'otite. Non in quest'ordine, perché L5, se avessi l'L4 vicino all'S1 più che l'L5... Sarebbe un esperimento genetico. Esatto. Infatti no, quindi... Invece io ho l'otite, se ti può interessare oggi. Ma questo non è un asilo, questo è un gerontocomio, è un ospizio questo. È un ospizio questo. Ah sì, beh sì. Scusa, ma quale sfizio? Non ho capito di che sfizio parli. Cari bambini, all'ascolto oggi Drago è più sordo del solito. Aia! Ho l'otite, voglio vedere. Vai, cominciamo, sennò qui arrivano le 5, arriva l'ambulanza, anzi arriva subito il carro funebre. Va bene, cominciamo. Dai, ne ho visto un'altra, Drago. Ma cosa? Banca col nome poco serio. Ah, sai? Tipo che banca? Sì, è WeBank. WeBank. Sembra YouTube, no? O iPad, però è WeBank. We, aia! E com'è lo slogan? WeBank, ti fideresti a mettere i tuoi soldi in un nome così? Tipo quella di Nixon. Però, scusa, no? Le banche col nome serioso, non è che poi si sono dimostrate molto serie. Cioè, Credito Agricolo, Banca Popolare, le casse di risparmio. Quelli grattino, poi, sì. Poi fanno tutti a fare compravendita di mutui e quelle pasticci lì. Quindi tanto vale chiamare una banca che banca o WeBank. Certo. Quella roba lì. Sono nomi che ammiccano, capito? Nomi friendly. È proprio quello che fa incazzare, capo. Ma cosa? Cercare di far passare per friendly le banche a partire dal nome, io la trovo un'ipocrisia inaccettabile. Ma perché le banche, dai. Ma sono imprese come tutte le altre. Sì, però insomma, allora facciamolo anche per le fabbriche d'armi, siamo a posto. Ma cosa? Cambiamo nome alla Breda, la chiamiamo Che Lanciarazzi. Almeno così, oltre a fare armi, fa tanta simpatia, no? Aia, aia. Sai che il mal di schiena nei bambini, K, è molto frequente? Si è letto tanto di nuovo in quelle cose puoi vedere delle università, le ricerche. E dicono che questo mal di schiena nei bambini, anche e soprattutto nei bambini alti 2 metri, può essere causato da malattie renali. E tu forse ne sai qualcosa. Già dato, infatti, un calcolo che ho espulso, non so come, perché non è scomparso. A un certo punto è sparito. Sì. Vabbè, allora difetti. Forse di notte l'ho espulso. Ecco, Tito, come di notte, cioè, in che senso? Dormendo, sono accorto, qualcosa dico, succede vabbè, però per far insomma, uscire questo calcolo. Vabbè, vabbè. Indaghiamo. Allora, potrebbe essere un difetto della curvatura della colonna vertebrale, oppure no? Tu sei a posto. Oppure, senti, potrebbe essere un'alterazione della struttura dei singoli corpi vertebrali, proprio quelle che citavi prima, L1 sì. e L2, e potrebbe essere, non so, la malattia di Scheuermann. La cosa? La malattia di Scheuermann. Beh, io spero di avere la malattia di Scheuermann, Perché speri di avere una osteocondrite delle cartilagini dei piatti vertebrali superiore e inferiore, ma dai. Perché quando la chiami la malattia di Scheuermann, mi piace il nome. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione molare e anche una regressione politica. È vero che viviamo una regressione politica, sociale, ma anche proprio una regressione tout court. Se pensi che Ronaldo, no? Ronaldo chi? Ronaldo il brasiliano, quello che giocava nell'Inter. Sì. Non il parrucchiere Ronaldo. Cioè anche c'è anche un parrucchiere. Sì, sì. Vabbè, c'è anche quello che gioca nel Manchester. Sì. No, adesso gioca nel Real, anzi, il portoghese. Non so, calcio questo. Calcio. Vabbè. Ronaldo del Ronaldo, Milan. Non quello, sì, ha giocato anche nel Milan, però è quello dell'Inter. No? Vabbè, Ronaldo, dai. Ti ricordi che era un po' grasso anche a volte, sì, no? Sì. Allora, adesso ha smesso da poco di giocare. Avrai visto anche la conferenza stampa in cui si è messo a piangere. No. Vabbè, la puoi vedere su YouTube, è molto commovente. Comunque, Ronaldo in Coppa America nel 99 era un po' sovrappeso come al solito, e per fargli perdere dei chili, i medici gli hanno dato un farmaco per dimagrire. Però questo farmaco com'è che faceva dimagrire? Ma che ne so? Faceva dimagrire aumentando le evacuazioni. Così, per evitare incidenti, il povero Ronaldo era obbligato ad andare in campo col pannolino geriatrico, il pannolone. Ma sotto i calzoncini? Sì, infatti aveva un po' un aspetto terribile. Però poteva era scattare, grasso, no? Vabbè, sì, comunque lui poteva scattare, poteva lanciarsi in velocità senza trattenersi, mentre lì si lasciava andare e poteva giocare proprio come voleva. E no? se ti toccava di marcare Ronaldo, infatti, e ti capita che evacua, che sei lì? Ma infatti i giornali intitolavano spesso Ronaldo immarcabile. E ora, bambini, ricreazione! Allora, perché non viene fuori il suono? No, vabbè, ma cosa fai? Che c'è? Col telefonino, bambino Alberto. I bambini col telefonino cosa? Proprio non dovrebbero averci niente a che fare. I telefonini è diminutivo, sono fatti apposta per i bambini. Sì, telefonini, perdono, telefono perdono per tempo, spendono soldi, anche gli occhi sempre a guardare lì, a fare smetti, gli sms, attendite anche. Vabbè, ma sono bambini, hanno altre cose da fare. Bambino Alberto, più basta più col telefonino. Aspetta che non riesco, è un attimo, no? Ma un attimo! Cosa un attimo? Cos'è che fai lì? Ma sto cercando di... Qui c'è il menu e non riesco a selezionare l'opzione che voglio io. C'è il menu. È perché qui è Touchpad questo qua. Io ho la pelle secca e mi scivolano le dita. Touchpad? Sì, lui ha la pelle squamosa. Touchpad. Come la pelle un po' squamosa e non mi scivolano le dita sulla... E il menu cosa ti serve lì? Menu? Perché è un giochino, cos'è? Ma che giochino? Per la base, no? Per la base musicale, la base ritmica. Aspetta, ecco. Vabbè, ho capito. Questa qui è MP3. La base ritmica, no? Ma cosa te ne fai? Senti questa roba noiosissima tutto il giorno. Ma che palle. Allora, Tecno. Allora, ecco, già capo capisce un po' di più. No, allora, vabbè. Questa qui si chiama base perché è la base, no? Poi dopo sulla base poi c'è l'acido, lì interviene l'artista, no? Il performer. Il performer. Cioè? E che fa il freestyler. Il freestyler. Io faccio freestyling. Bellissimo, capito? Sì, vabbè, ma sì, rappa. Roba... Ma sì, ma impara a suonare la chitarra. Improvvisando, e canta le canzoni perché? Di Guccini. Ma no, scusa, no, sentire un po', dai, il freestyle, vai, con la base e poi rappa, dai. Adesso, su improvviso? Dai, sì, freestyle. Vediamo se riesce, se va, vediamo un po'. Allora. Vai. Dai. È l'ora dei bisogni. Mi scappa la pipì. Io. Ma sono già 3 ore. Che siamo in fila così. Beh, e bidello Gino che mi aveva detto che lui veniva che sarebbe venuto dopo lo... ma cosa c'è questa base? ma la base non funziona, ma non aspetta base. Perché il nuovo telefono, ma no, c'è la base ritmica che è sbagliata, no? La base è la metrica, ma cosa è la metrica che è sbagliata, no? No, la tua, ma no, allora la base deve essere la base per chi va sopra, no? Deve essere la base già giusta. Io vado e no, ah già, tu vai freestyle e la base si deve adattare. Vabbè, dai, si deve adattare. Prova poi di nuovo, dai. Perché magari, aspetta, magari ritento che io adesso ho schiacciato un altro. Vai. Qui mi sa che va meglio. È uguale. Va bene, no? Senti che è giusto. Giusto. Dai, su. È l'ora dei bisogni. Bisogni. Mi scappa la pipì. Pipì. E invece siamo 3 ore. Che siamo qua in fila così. Vabbè, già. Ma il bidello Gino? Ma il bidello Gino? Che mi aveva detto? Che sarebbe venuto con la macchina piccola per... Allora... Ma no! Ma cosa c'è adesso? Ma come? Come cosa c'è adesso? Non senti? Questa è una baracca, eh? Qui dicono promozione! Ti regalo il telefonino, poi non funziona! Però, senti, bambino Alberto, il problema è che tu non sai più cosa dire dopo il bidello Gino. Allora, cioè, tu ti blocchi lì. Allora, un freestyler... Un buon freestyler ha bisogno di una buona base, no? Non è che la base... Prendi una base qualsiasi e freestyler... Come uno va in motocicletta, c'è la moto con una ruota sola. Ma no, ma questa base... L'hai comprato tu il telefonino. Infatti, la base va bene. E non mi ha regalato. L'ha vinto. E se no i soldi li vado a prenderli. Già. Però non funziona, allora come faccio per freestyle? Fai così, lo vendi a Gildo, tipo il tuo amico Gildo, gli vendi quel telefonino lì con i soldi. Immaginari. Te ne compri uno nuovo. Ma sai che c'è... Perché Gildo, lui i soldi non ne ha. Ma sua mamma, la signora Milfia, lei i soldi ne ha. Sì. La mamma immaginaria che esercita in casa. E quindi lo dice a lui, dice che vuole il telefonino perché vuole sapere. Oh, Gildo, io voglio sapere dove sei. Dai, fai il rap di Gildo che va a chiedere i soldi alla mamma, dai. Allora, vediamo. Speriamo sta base però, Dai. È sempre adesso la stessa. Ma adesso va bene, adesso è stabile. Allora, Gildo va a chiedere i soldi a Milfia, dai. Gildo! Schiaccia il citofono. Sale dalla mamma. Entra in cameretta. Poi va di là e dice la mamma: uè mamma, non è che c'hai 50 euro che devo comprarmi un telefonino? Va bene la mamma. Capito, base. No? Sì. E la mamma poi glieli dà. Perché gli dice: Gildo! E lei dice: Gildo! Uè Gildo, io te lo compro. No, perché voglio essere sicura di sapere dove... Allora, di sapere dove sei. Ma cos'è sto inferno? Ma no, basta, veramente, vedi che... Allora, tu vieni contro me, è un inferno. Allora faccio il freestyle senza la base, no? È meglio, forse. E beh, finché non trovo una base adatta a me, io faccio il freestyle da solo. Allora. Okay. E beh, hai capito? Gildo. E com'è? Allora, no, questa è... È finita così? No, speriamo che... E gli dia. Che non è che li aveva dati già. i soldi lì, la signora Milizia a Gildo. Era solo nella canzone. Era la canzone che era una specie di, come dire, wishful thinking. Ronaldo sovrappeso chiede asilo ad Eso. Confessa che per anni ha fatto pippi addosso. Eh no, però adoso. Perché addoso, sovrappeso adesso. E beh, un po' chi di assonanza. La scrive questa? La scrive Angelo Ventriglia. Grazie Angelo. Sì, però, se l'aveva mandato un'altra versione. E come vedi, io ho consigliato. Consigliamo una riscrittura, magari riflettendo sull'assonanza tra adesso e addosso, con la discola. E lui l'ha scritta giusta, Ah sì. Ronaldo sovrappeso vi chiede asilo adesso. Confessa che per anni si è fatto pipì addosso. Ma non era la cacca? Chiede asilo.